Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Trovati a Olimpia, la città dello sport. Gli dei dell'Olimpo ci chiedono oggi di guardare al tempo in cui Parma, oggi provincia in crisi sotto il profilo sportivo, era invece una delle capitali vincenti dello sport nazionale. Per scacciare i fantasmi di oggi andiamo ad acciuffare i fantasmi di allora. O meglio, furono i giocatori del Santal Parma, una delle corazzate dello sport italiano di 30 anni fa, a far scappare i fantasmi sovietici sotto rete, compiendo un'impresa che ancora oggi sa di leggenda per la pallavolo mondiale. Battere i campioni dell'Unione Sovietica a casa loro, primo club occidentale nella storia a riuscire nell'impresa, e lanciarsi così verso la conquista della Coppa dei Campioni di Volley. Tante le testimonianze che abbiamo raccolto tra le strade di Olimpia per rivivere quel giorno del 9 gennaio 1985, quando il Santal Parma sbancò il campo dei campioni di Unione Sovietica del Radiotechnik Riga per 3-1. A partire da quella forse più importante, perché dalle sue mani passarono tutti i palloni di quel successo. Piero Rebaudengo era infatti il palleggiatore di quel Santal. 4 scudetti, 2 coppe campioni tra Torino e Parma, un bronzo olimpico con la nazionale e il suo palmarès da giocatore. Oggi, a 56 anni, Rebaudengo è amministratore delegato della Blue Volley Verona, club protagonista nella Superlega italiana. Battere i sovietici, per di più a casa loro, era allora quasi un miraggio, ricorda Rebaudengo. La pallavolo era lo sport nazionale in Unione Sovietica. L'Unione Sovietica aveva vinto negli anni, tra la fine del 70 e primi anni 80 fino all'84, praticamente tutto, mondiali, olimpiadi, e a livello di club vinceva praticamente quasi tutte le manifestazioni. Dico quasi perché quelle che non vinceva è perché non ci partecipava. Negli anni olimpici l'Unione Sovietica non faceva partecipare i club alle manifestazioni internazionali. E dire che le premesse di quella trasferta in terra sovietica erano state tutt'altro che positive, sottolinea Roberto Ghiretti, esperto di comunicazione e marketing sportivo e allora direttore sportivo del Santal. Avevamo vinto l'anno precedente la Coppa dei Campioni, ma era l'anno sabbatico in cui i russi, essendo l'anno olimpico, poi non andarono nemmeno alle Olimpiadi di Los Angeles nell'84, non parteciparono, quindi battemmo le squadre jugoslave, cecoslovacche, eccetera, eccetera, bulgare, ma non avevamo affrontato i russi. Nell'85 toccò che i russi rientrarono. La cosa interessante fu che non era il CSKA di Mosca che era in piena crisi tecnica, ma era il Radiotechnik di Riga, l'allenatore Parshin, che poi allenò anche una delle ultime nazionali sovietiche, e dei ottimi giocatori, ma diciamo che non erano il CSKA. Per contro, noi venivamo da un cambio di palleggiatore. Tornò in Corea Kim Ho-chul e arrivò Piero Rebaudengo dalla RobDK, e da un inizio di stagione veramente un po' zoppicante, nel senso che addirittura avevamo perso le ultime 4-5 partite prima di Natale. Il viaggio oltre Cortina poi era già di per sé una partita tutta da giocare e dal risultato altrettanto incerto, ancora Rebaudengo. Si andava con uno spirito, diciamo, di avventura, intanto con un equipaggiamento da orsi polari, perché andavamo a giocare con 20-25 gradi sotto zero. Per fortuna noi giocavamo indoor, però c'erano trasferte che parliamo degli anni 80, dove c'erano i primi duvet o piumini che ingombravano un sacco di spazio, ma erano fondamentali per la nostra sopravvivenza. E poi si andava con grande curiosità, cioè le trasferte nei paesi dell'est negli anni 80, anni 70 erano delle avventure, perché bisognava avere un visto d'ingresso che prevedeva il ritiro del passaporto per almeno un mese, dopodiché venivano fatti dei passaggi alle dogane che duravano delle ore, e dico proprio delle ore non per dire, ma perché era questo il passaggio. controlli e scansioni dei passaporti piuttosto che delle impronte digitali, questa era l'avventura. E poi si trovavano paesi diversi, paesi con un grande mercato nero per acquisto di moneta occidentale, piuttosto che scambi di oggetti che riuscivamo a comperare a fronte di trattative mai finite, e quindi magari andavamo, le favole che si raccontano che si andava coi jeans e con le calze di rete, non era vero, nel senso che non si vedevano i jeans, però noi importavamo magari qualche scatola di caviale piuttosto che qualche macchina fotografica Zenith. A Riga però l'accoglienza è buona, sotto le maglie dei campioni del Radiotechnik del resto batte tutt'altro sentimento che la fedeltà all'orso sovietico. Ancora Ghiretti: ci tennero molto a precisare che erano lettoni e non russi e tantomeno sovietici. Questo anche nei rapporti che furono molto cordiali, lo erano anche col CSKA, addirittura nell'89 gli trovammo una prima sponsorizzazione per il CSKA, stava cadendo il muro di Berlino e cadde anche il divieto di sponsorizzazioni. Con loro insomma fu veramente familiarità immediata e un rapporto, devo dire, eccellente, sia nell'andata sia nel ritorno. Nel Palazzo dello Sport poi, più che il calore dei tifosi, è il gelo polare che si fa sentire, Rebodengo. La cosa che ricordo è quando abbiamo fatto l'ingresso in campo su questo terreno di gioco, che era praticamente una copertura in legno di un impianto di hockey su ghiaccio, e quindi sentivamo il gelo del ghiaccio sotto i nostri piedi, e quindi la pallavolo, che è fatta sì di salti, di elevazione, ma anche di interventi a terra, insomma quando si faceva il riscaldamento e doveva insomma stare a contatto col terreno, c'era un gelo folle. A proposito di calore, il sacro fuoco della rivalsa anima il trascinatore dei parmensi, il polacco Tomasz Wojtowicz. I sovietici hanno provato in tutti i modi a ostacolare la sua partecipazione alla gara. Tomek è stato uno dei grandi nomi della pallavolo degli anni 70-80, uno degli unici che si era permesso con la sua nazionale, parliamo di Olimpiadi di Montreal 76 e Mondiali di Messico 74, si era permesso di battere l'Unione Sovietica. Infatti le uniche sconfitte di quegli anni lì furono proprio ad opera della Polonia di Wojtowicz. E Tomek, che giocava con noi, era per loro un po' un avversario da eliminare in anticipo. Lui infatti dovette passare, perché parliamo di pre-perestroica, pre-89, quindi il consolato, l'ambasciata italiana polacca in Italia doveva mandare il suo passaporto all'ambasciata sovietica in Italia, che doveva concedere il visto a un paese fratello o molto vicino a loro, che sarebbe andato in qualche modo anche a cercare di batterli. Inizia il match, il Santal prende subito in mano il gioco, malgrado la resistenza del Riga, ricorda ancora Piero Rebaudengo. Siamo al cambio palla con Bent Gustafsson al servizio, eccolo lo svedese, out la sua battuta, servizio per la Santal. Allora non c'era il rally point system, quindi i pistacchi erano a volte molto, molto importanti, anche al di là di quella che era l'effettivo valore delle squadre in campo, per cui giocando col cambio palla si faceva fatica a fare punti, ma quando facevi punto contavano doppio. E poi sai, beh, adesso per me i ricordi sono nitidi, nel senso che la vittoria la ricordo perfettamente, la festa che abbiamo fatto dopo perfettamente. A volte ti sembra di aver fatto una grande impresa, poi se vai a rivedere alcune immagini dici, beh, insomma, abbiamo fatto punto perché tiravano fuori gli altri. La Santal sta approfondendo tutto il suo agonismo in questa partita. Al servizio va ora Giulio Belletti, il cui innesto in campo ha portato una preziosa iniezione di vitalità alla Santal. Giulio Belletti, capitano degnissimo di questa squadra. Li abbiamo, diciamo, battuti sul loro terreno, era un terreno anche fisico, nel senso che ricordo bene che li abbiamo sovrastati a muro, che era uno dei fondamentali per i quali l'Unione Sovietica andava famosa. 6-15, 15-8, 15-8, 15-6. Il Parma trionfa 3-1 e il protagonista, manco a dirlo, ha un cognome polacco, sottolinea ancora oggi Roberto Ghiretti. Il fotogramma principale è un Paolo Lucchetta stratosferico, ma soprattutto appunto un Thomas Wojtowicz, un gigante della pallavolo di tutti i tempi, ma oramai verso un progressivo tramonto. Giocare una partita perfetta, ma giocarla soprattutto perché era contro l'Unione Sovietica. In questa partita disse: questa deve essere la mia partita dell'anno. Insomma, lo fece e lo disse. Qual è il valore simbolico, politico, della vittoria degli emiliani per la storia del volley, dello sport mondiale? Ci aiuta a capirlo Daniele Serapiglia, ricercatore dell'Università di Bologna, membro della Società Italiana di Storia dello Sport e che sta sviluppando per conto della Federvolley uno studio sulla storia della pallavolo tricolore. Tosse dei fantasmi, no? Nell'84 nelle sale cinematografiche c'era Ghostbusters. Cioè si acchiappavano i fantasmi, in quel momento si acchiappò un fantasma che era il fantasma della superiorità russa e diede così il via anche a togliere le paure dalle spalle da quella che poi fu la generazione dei fenomeni successiva che si stava formando in quel tempo a Parma come a Modena, ed era quasi una risposta alla mancata partecipazione dell'Unione Sovietica agli USA, era quasi un incipit di quello che avverrà in Francia nell'86 quando gli Stati Uniti batterono l'Unione Sovietica nel mondiale e poi soprattutto a Seul dell'88 quando la batterono nuovamente per la medaglia d'oro olimpica. Oggi, come dicevamo, Piero Rebaudengo è nel board della Blue Volley Verona e guarda con emozione ai ricordi di allora e con amarezza la crisi attuale del calcio e dello sport parmense, che ha nel frattempo visto sparire anche quella fenomenale realtà pallavolistica. Addii che fanno riflettere. Ma devono far riflettere tutti. Il mondo del calcio è una punta di un iceberg, di un movimento sportivo enorme che è in Italia, nel bene e nel male. A volte ci sono, diciamo, dei fattori positivi da imitare e da prendere ad esempio dal mondo del calcio, altri da evitare con grande cura. E quindi se c'è una cattiva gestione non è perché è lo sport che non funziona, ma sono le persone che dentro quello sport vogliono fare i furbi. Questa la leggenda del Santal Parma, 30 anni fa vincitore in terra sovietica. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Noi ci siamo, pronti a condividere con voi anche quest'estate tante buone notizie. Parliamo di tutto, dalla Grecia di Tsipras alla Campania di De Luca. In stile si può fare, saremo in compagnia dei nostri eroi quotidiani, inventori, cervelli che non fuggono, sindaci virtuosi, contadini del terzo millennio. In pratica, aspettiamo solo voi. Si può fare l'attualità anche d'estate con Alessio Maurizi, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio 24. Olimpia, miti e verità dello sport. Mattanese che si congratula con il capitano del Parma e il presidente di UEFA, Johansson, consegna la coppa che Lorenzo Minotti alza al pubblico e che è un trionfo meraviglioso, un ventolio di bandiere, una grande gioia in tutto lo stadio per questa squadra che, offrendo spettacolo, ha conquistato la coppa delle coppe 92-93. Forse nel bene e nel male iniziò tutto quella sera del 12 maggio 1993, mentre Lorenzo Minotti, capitano del Parma dei Miracoli, sollevava nel cielo di Wembley la Coppa delle Coppe, che i ragazzi allenati da Nevio Scala avevano appena strappato ai belgi dell'Anversa. 3-1 in un tripudio di sciarpe gialloblu che per una notte trasformarono Londra in capitale d'Emilia. Nei giorni più amari per la Parma del calcio, riviviamo oggi a Olimpia proprio quella serata magica e sorprendente. Chissà se guardando al proprio passato, a questi anni trascorsi tra sogni di grandezza e cadute nella polvere, Parma non ritrovi la forza e il coraggio di riscrivere il proprio futuro. Proviamo a capirlo insieme al nostro ospite, Lorenzo Minotti, classe 1967, capitano di quel Parma. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Ciao, saluto a tutti. Capitano Lorenzo, ma anche primo marcatore in quella fantastica gara, giusto no? Sì, ho fatto il primo gol, ho avuto anche questo privilegio, fra l'altro lì possiamo ricordare che si giocava a Wembley, quindi proprio nel tempio del calcio mondiale. E devo dire che ho avuto, ripeto, la fortuna e il privilegio di segnare un gol, fra l'altro a detta di tutti anche un gol molto bello, che recentemente era stato indicato dalla UEFA fra i 60 più bei gol della storia delle coppe europee, e quindi per me la soddisfazione è stata doppia, tripla, ecco, non saprei come definirla, anche perché giocando difensore non è che puoi così segnarsi, diciamo, tutti i giorni. Fu quello il primo di una serie di successi che fecero del tuo Parma non solo una big in Italia, ma una grande d'Europa. Sì, noi vivemmo in quegli anni un momento magico, perché l'anno dopo riuscimmo ad arrivare di nuovo in finale e ci arrendemmo a Copenaghen solo all'Arsenal. Nello stesso anno riuscimmo a battere il Milan in una partita memorabile a San Siro, dopo aver perso in casa 1-0 l'andata, e vincemmo la Supercoppa Europea andando appunto a violare San Siro ai tempi supplementari. E poi addirittura l'anno dopo ci ripetemmo proprio a San Siro in un confronto ancora con una squadra italiana, cioè con la Juve, quando ci trovammo di fronte ai bianconeri in finale di Coppa UEFA, vincemmo 1-0 in casa a Parma, e poi si giocò al ritorno, la Juve allora giocava le coppe europee, giocava a San Siro, e ci trovavamo in uno stadio stracolmo, 82.000 persone, 70.000 della Juve, 12.000 del Parma, riuscimmo a strappare un 1-1 e a vincere la nostra terza Coppa Europea. E allora Lorenzo Minotti, andiamo insieme a riviverle le emozioni di quel 12 maggio 1993 con un altro testimone d'eccezione che visse quella serata da un punto di vista davvero particolare. Marco Ballotta quella notte magica la visse tra i pali del Parma. Era lui infatti il portiere di quella squadra che in un paio di stagioni era arrivata dalla Serie B ad accarezzare l'erba più famosa del pianeta dopo quella di Wimbledon, il prato da sogno di Wembley. Favoloso, perché era un tappeto che sembrava un campo da golf, non c'era una minima buca, tutto perfetto, proprio quando si dice il prato inglese, quello rispecchiava il nome, ecco, favoloso, veramente un bellissimo campo che poi poco dopo hanno praticamente rifatto lo stadio, insomma è stata una delle ultime partite che si giocò in quel campo, e giocare per noi è stata un'emozione doppia, ecco, perché l'importanza di quello stadio parla da solo, più giocare una finale per noi, per tanti giocatori, la prima volta se non per tutti, e soprattutto per la città. Scenario imponente, ma i ragazzi di Scala più che l'emozione sentono vicina la grande occasione. E il tecnico non cambia l'abituale approccio alla partita, malgrado che di fronte ci sia l'Anversa, in una finale di Coppa delle Coppe. Ma non cambiò più di tanto, si sentiva magari l'importanza della partita, perché ripeto, per tutto l'ambiente, per l'allenatore, per il giocatore, era la prima volta che insomma, si viveva una finale a livello internazionale. L'anno prima la Coppa Italia era una finale anche quella, sì con la Juve, però il richiamo del campo internazionale completamente diverso, la vivemmo normalmente, tra virgolette, consapevoli che andavamo a giocare una finale, non avevamo, diciamo, niente da perdere, perché comunque l'obiettivo era raggiunto, però è sempre meglio vincere, perché l'anno successivo siamo ritornati in finale e l'abbiamo persa, ma nessuno si ricorda di quella finale a Copenaghen. Il Parma inizia come d'abitudine, prendendo possesso del pallone del gioco. Passano appena 9 minuti e gli uomini di Scala sono già in vantaggio. Il calcio d'angolo di Osio, Minotti al volo, gol! Parma in vantaggio! 1-0 per il Parma, splendido gol del capitano Minotti. È un grandissimo gol, perché fa in acrobazia. Ma meglio non distrarsi, perché il pareggio dei belgi arriva appena 2 minuti dopo, quando l'Anversa approfitta di un errore di Zoratto per siglare l'1-1 con Severens. Ma gli emiliani non mollano, è la mezz'ora quando un cross arriva nel cuore dell'area belga. Perfetta la descrizione di Luigi Colombo e l'analisi di Giacomo Bulgarelli per Telemonte Carlo. Intanto in azione Osio, cerca di liberarsi dell'avversario, ancora Osio, era Segers, c'è il competenza di gol Tinelli che porta in vantaggio il Parma 2-1 al 29. È stato bravissimo Osio a fare questa azione, ha traccheggiato, ha aspettato che Melli tirasse la posizione giusta, poi gli ha dato uno splendido pallone, è stato anche favorito Melli dall'uscita sbagliata di Stojanovic, si è messo dentro a porta vuota anticipando sia lui che il proprio avversario. La strada verso il trionfo è tracciata, bisogna solo fare attenzione e aspettare l'occasione buona per chiudere la partita, che arriva a 6 minuti dalla fine. Si tocca indietro per Brolin, da questi Grun. Scatta bene Cuoghi, non è fuori gioco, non è fuori gioco, e solo davanti al portiere, tira! Gol! 3-1 per il Parma! Stefano Cuoghi firma probabilmente la conquista della prima coppa europea per il Parma. I belgi si rassegnano, l'arguzia del compianto Bulgarelli fotografa perfettamente la serata. Grande serata, Bulgarelli, accettano molto sportivamente la sconfitta. Sono contenti che hanno perso solo 3-1. Ed ecco il fischio finale del signor Assemacher. Parma batte Anversa 3-1 nella finale della Coppa delle Coppe con gol di Ninotti all'ottavo, Negli al 29esimo e Cuoghi al 38esimo del secondo tempo, ai quali la squadra belga oppone il gol di Severes all'11esimo, e il Parma conquista il suo primo alloro europeo, e noi ci auguriamo che sia il primo di una bella serie. È un momento meraviglioso per i tifosi del Parma, per la squadra, per i giocatori. Nelle parole di Marco Ballotta, oggi tutta l'emozione della festa al ritorno in Emilia. Il ritorno a Parma ci aspettava tutta la città, già a metà città era a vedere la partita, e quando siamo ritornati c'era tutta Parma che ci aspettava, una parte all'aeroporto, poi dopo abbiamo fatto la festa in piazza, e veramente si era mobilitata tutta la città per starci vicini, e abbiamo dato un'emozione importante a questa città, e da lì è incominciato, diciamo, il calcio che contava, nel senso che dopo si sono cominciati a fare voli pindarici, a pensare in grande, e forse da quel punto di vista lì un po' è stato sbagliato, però abbiamo dato l'input importante. A riviverla oggi, quella festa, resta nel cuore del portiere del Parma dei miracoli un misto di gioia e malinconia. Se rimaneva quel Parma lì, probabilmente tutte queste cose non succedevano. Se invece di cercare di vincere lo scudetto si cercava di crescere con calma, probabilmente non sarebbero successe certe cose. Però non si sa mai, dopo sono state coinvolte altre società, la Parma, insomma è un discorso molto in grande, quindi non penso che sia assolutamente colpa nostra, anzi noi avevamo dato molta gioia alla città, ai tifosi, ma era veramente un corpo unico tra noi e la città. Lorenzo Minotti, abbiamo rivissuto anche attraverso le parole del tuo amico e compagno di squadra Marco Ballotta il trionfo del Parma in Coppa delle Coppe nel 1993 a Wembley contro l'Anversa. Cosa rimane oggi secondo te di quella vittoria e di quelle che seguirono? I successi fanno parte di un arco della mia carriera, ma anche della mia vita, che rimarranno incancellabili, indelebili, non soltanto per aspetto sportivo ma per tutto il contorno che c'era, perché fu veramente un'avventura entusiasmante che coinvolse tutta la città, tutti i tifosi, e fu qualcosa veramente di speciale, perché di quel periodo non ricordiamo solo le vittorie, ma per esempio ci fu un altro episodio straordinario. L'anno prima di Wembley noi partecipammo alla Coppa UEFA, era la prima volta che partecipavamo alle Coppe Europee, e al primo turno facemmo 0-0 con CSKA Sofia, al ritorno in casa vincevamo 1-0, sbagliamo un rigore, poi al 93esimo prendemmo il gol e fummo eliminati, quindi ci fu una grande delusione sportiva, ma la cosa straordinaria è che la domenica dopo, prima della gara interna con la Sampdoria, i nostri tifosi vennero nel ritiro e ci fecero la festa della squalificazione, ci resero onore nonostante il campo avesse espresso un verdetto negativo, ma lì si capiva veramente qual era il sentimento e i valori che univano quella squadra, quella città, quei tifosi, e quindi quelle furono le fondamenta poi per vivere l'avventura straordinaria delle annate successive. Lorenzo Minotti, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e a presto. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it e scaricare il programma in podcast dalla nostra pagina web sul sito radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Buona domenica da Dario Ricci.